Ebbe! La 27 accesa ce l'ha! Ehi! Arrivando sta! Sul 10 c'è Claudio, Gianni, Luca, Luca Manicomio! E beh, ce l'hanno ordinata anche loro! E cosa? La bicicletta! Beh, stanno parlando! Ehi, vedo, stiamo parlando qua. Eia, c'era anche Giulio, ma non l'ho sentito io. C'è anche cosa, un altro, non mi ricordo il nome. Non mi piace il canale 10 a me, no. Non c'è nessuno sul 23. Perché è qua sul QRM? E cosa vuoi fare? Non mi sono andato oggi in campagna, che era vent'anni. Cosa fa? È così in campagna, vai tutti ciò. Catta di campagna, non saranno. L'erba già è umida. Ah, vabbè. Ah, io non mi sono andato. Ah, si sta bene in casa già. Quando fa tempo buono magari scendiamo ogni tanto, ma ancora non si può fare niente, così che... No, non ci sto scendendo, scendendo poco e niente, cosa? Cazzo, ancora non c'è niente da fare, fra poco sì. Anche io non ci sto scendendo, cosa fare? No, c'è troppo umidità, c'è anche, a parte quello. No, non mi preoccupare, mi sono andato a Sassari a casa di mia figliura. A magna poi a rizzi che mese me ne sono condurrato. Ehi, vabbè, tu c'è la casa lì. Cazzo, potete stare benissimo. Ma io non è che posso stare in cabina, no. Non saranno. Se avrete avuto la casa, magari sarai sceso più volentieri. E più spesso anche. Ma non ci sono tutte le comodità, per cui non ho... No, altri tempi prima erano, adesso non è possibile, per cui si scende quando ce ne abbiamo voglia. Ehi, vabbè, bruci per la casa, non è che io pare mi tocco da questa casa, già c'è pura. Solo per umidità è pura, compreso, e anche per quello che non ci scende. Andiamo a paragna, e poi andiamo a raminazzare, poi va pure così. Però andiamo magari a fare una passeggiata a incadere sulla terra e tutti in fuga, ma... c'è un sacco di umidità, non mi piace capirci. Non mi piace più, no. A me non piace più la campagna. Io farò la pure minnazzo, da voi sono qui disinfezioni che lo mi farò. E cosa mi fa? Sono finiti quei tempi, capito, grazie a... Non siamo più giovani a vanno. Anche quella a me mi dà fastidio, a chi non posso fare nulla, a chi mi viene su. E allora mi stucco, lampade così senza fare nulla, e anche per quello che non ci scendo. A chi non posso fare, mi viene subito chi sta a farne cosa vuoi. E allora accendere così, non mi piace, ne manca. A chi ti gira la dreta, magari vedi burichi, ti fai chi dà, ti fai chi dà. Mi rompe, allora accendo. A pezzi rubati. No, io accendo solo quando ce l'ha fare, basta, ragazzi. Quando ce l'ha fare, accendo. Magari a chi sera, così. Vedi dagli alemma, vedi burì magari, allora a farlo. Ma da voi no, manca magna. Ma che ricevi ciò che farai, capito? Farà la sera un mazzano chisso, a innaffiare gli agrumi e basta, e mi innazzavo. Doveva pigliare qualche frutta, eccetera. Ma farà che mi innazzavo, capito? No. Non è più come prima, non asciugano, ecco. Non ne ho voglia. Io stesso non ne ho voglia per via del motivo che non posso fare nulla. Se mi muovo poco, gioco io a bocca a bicchia. E tanto male non mi fanno manda. Anche qua in casa, pure se mi metto a fare qualche cosa, chiami la botta, ma no, magari un travaglio di una di, me ne pongo quattro, capi? A chi sono? Fende e posa, compreso, a chi mi viene a farlo? Grazie, mi devo assentare, sta venendo gente. Ci sentiamo dopo, dai. Già acceso, tanto sto ascoltando a loro. Va bene. Dai, Claudio, guarda un po'. Prova, Massimilia. È vero. Massimilia. Mi ascolti? Ehi, va bene. 5-7, sì. A metà palo l'ho messo, no? 5-7, sì, non c'è problema. Va benissimo alla grande. Questo adesso cosa c'è, con l'antenna in gomma? E si è calato? Sei sceso di segnale quasi a zero. E che cazzo non so io? Massimiliano, eri 5-7 e sei sceso a 1. Non dipenderà da me, non lo so. Luca, bene mi ascolti. Luca? Eri 5-7 e sei calato a segnale 1. Scusi, non si è caduto dall'antenna. Prova. Oh, questo è il gommino suo. Sì, cazzo. Allora c'è il PL a massa in quella base magnetica con l'antenna. Qua sì, ancora più alto. Questo è un gommino, sarà 40 centimetri, to. Ancora più alto, sì. Arrivi quasi a 8, figurati tu. Prendo gas, così. Già è nuda. Tieni conto che io non c'ho più la 510, L'ho tolta, già lo sai. C'ho quell'antenna là che va molto molto meglio qua, Non lo so, allora la devo rivedere, là. No, rivedila Massimilia bene, perché o c'è il PL che è andato a farsi fare in culo, o è entrata acqua nella base magnetica. Aspetta che si prova a agganciare l'area del PL, di nuovo, aspetta. Prova. No, Massimilia, è più forte l'altra antenna, alla grande. No, scendila e ricontrolla la Massimilia, facciamo le prove quando è bassa. Sicuramente è entrata acqua nella base magnetica, può essere successo. Già mettiamo a posto tutto, Massimilia, vai, non ti preoccupare. L'importante adesso abbiamo fatto la prova, quell'antenna da rivedere, Ehi, non ti andare, che vi saluto.